Salta, questo mio hermano, compagno, ma Fabi, buonasera. Buonasera, buonasera, piacere che mi fa. Ehi, ulala, ulala, ciao, ciao, ciao. Un attimino, sto leggendo una cosa. Ciao Gaggiani, ciao, ciao. No, io non sento nessuno. Il bello dell'antenna in terra è quello. Ah, non senti nessuno. Beh, preparazione non ne sento adesso. Deve essere un po' bassino, eh. Mi sento se sono segnali furti. Beh, è così infatti. Quando c'hai l'antenna in terra però non c'è manco quel re. Zero proprio. Bianco assoluto. Quando c'è l'antenna. No, qua nella finestra, sì, ho detto in terra, ma io sono, diciamo, a 3 metri da terra, diciamo, non è proprio da terra. Il livello della finestra mia, dal primo piano. Ehi, ma c'è più bello, perlomeno qua via bomba. Vabbè, siamo vicini, anche tu eri via bomba, ma via l'aria quanto siamo? Neanche 1 chilometro forse. Di più. 10 di più. Io sono dietro via Baldetta, via Amore, su quella zona lì. Bella zona, l'antenna l'ho vista, prima non la vedevo, invece poi tu mi avevi detto dove era, era un po' nascosta dai palazzi, praticamente dietro, dai. Dato io non l'ho vista, però sei in zona buona, dai. Io abito in zona Carbonazzi. Zona bassa, È bassa, Bassa Ridda, zona bella. Siccome la pamballata di direttivo l'abbiamo venduta, una venduta rucca in continente, dopo il gassone di bocca. 20 metri di gassone a rotta ci vuole. Mi sa che le ho viste su Facebook, le ha vendute a nome suo, dai, non a nome tuo. No, per conto c'è scritto, sì, mi hanno già contattato. Lunedì spedisco, faccio il corriere qua e porta via. Mi sono rimasto in groppa, sono contento. L'ottore l'ho venduto subito, sai, devo dire subito. In 3 giorni è venduto immediatamente. Sempre fuori? Sì, allora qua. Poi, lascia vedere. Qua voglio la roba gratis. Mi avvame, vero? No, ma se gliela dai gratis già la vogliono. Cazzo, cosa tanta gente c'era che la voleva gratis? Ho capito bene, dai. Tutto bene, Claudio? Sì, tutto bene, ci hanno un po' così, in questi mesi. Adesso vorrei fare un'altra visita e poi vediamo cosa ne è stata fuori fra. Già, vabbè, già sono parlati con la tua, quindi già lo sai. Io mi sono cambiato l'altro giorno, ma non sono soddisfatto. Mi sa che non mi hanno azzeccato la centratura della pupilla, del campo visivo. Infatti mi sa che vado e glielo dico, magari me lo faccio rifare le lenti. Io ho lì anche con gli occhiali, però non vede, l'altro mi sta aggrappando tantissimo, quindi no, vediamo, dai, peccato. Va bene, per il resto è tutto che fa, non ci possiamo lamentare, tanto se ti lamenti è peggio. Va bene così, avanti Gianni. Sì, vai avanti, diciamo che per andare a peggio è meglio così. Guarda, va benissimo, se ci fosse stata un po' più di salute, ma ti dico un pochino, in questo periodo tra io sto facendo gli esami, ho fra per l'artrite, capito, siccome c'era anche l'aria, mi sta mancando la forza nelle dita, ogni tanto mi fanno male le ginocchia, i gomiti, capito, quindi sto aspettando l'esito. Penso che sia positivo. Insomma, sono bene. Anche a volte quando, per esempio, stringo qualcosa forte in mano, tipo la chiave inglese o così, poi vado ad aprire la mano e faccio fatica ad aprirla. Sotto le tendinite, infiammazioni, i gomiti, non ne parliamo. Sono sempre con questo tutore. Oh, yeah. Ho provato anche un piano terapeuta l'altro giorno. Sembrava che funzionasse all'inizio, poi invece è ritornato il dolore. Non sono dolori, già è quello, la triteromatoide è una brutta bestia d'aria, ne sta soffrendo tantissimo col lavoro che fa, ne sta soffrendo tantissimo. Allora, cosa stavi dicendo Gianni? Allora, ti piacciamo tutti a grossi, io stesso ho fatto le lacrime l'altro giorno alle mani, perché a volte andavo a svitare il tappo della bottiglia e non ci riuscivo. uscivo, cosa che prima era una cosa tranquilla, la facevo normalmente. E sono andato a farmi le lastre, anch'io ce l'ho la fitte, capito? Delle mani. Dice più la destra che la sinistra, poi mi fa più male la sinistra della destra. E curati, senti, il diabetologo se puoi fare la puntura alla pancia, perché se no la cura è peggio. Se no la cura è peggio, ricordati Anna Marchesini, è morta di artrite reumatoide, si sono bloccate tutte le articolazioni. Quindi bisogna curarla, perché è una brutta bestia da parare. Io ce l'ho già alle dita, alle mani, alle ginocchia, ai gomiti. Mi sta prendendo anche giù alle dita dei piedi, capito? Se uso calze molto grosse e strette è un casino, devo usare calze fini, infatti non so mai cazzo fare questo inverno, calze fine che non siano molto strette, che non mi stringano molto le dita, e un numero in più di scarpe, capito? Io ho il 41, ma non l'ho trovato, sto trovando il 41 e mezzo per non prendere il 42, se no mi sta troppo largo. Va bene, purtroppo è così, va bene, ehi, freghiamocene, va bene lo stesso, portate andare avanti, vai bravo. Poco fa mi è venuta la brillante idea di mettere in moto il disespugliatore perché era un po' di tempo fermo, è partito all'inizio perché poi si è fatto mancare odore di benzina, vado a toccare le pompette con il motore del carburatore, tutto pratico, tutti a pezzi, se l'ho aggiunto con altre pompe adesso per farlo andare, però vuole tutto nuovo, quindi mi ha dato un po' mattana anche adesso a metterlo in moto, quindi il braccio ne ha risentito, però l'ho fatto partire, dai, qualcosa l'ho fatta. Vabbè, non meglio, stamattina mi sono messo a rompere con i radiali delle direttive, praticamente li ho già tutti assemblati, tutti separati, adesso domani mattina devo andare via Montella da Gianni a prendere un rotolo, un paio di rotoli di cartone, di quello morbido che usano in bianchini per mettere per terra, e un rotolo di pellicola, così lo imballo, e lunedì sicuramente Luca manderà il corriere, adesso gli ho fatto le misure dell'ingombro, sono tre colli da 3 metri, so. Tre colli da 3 metri di ingombro e circonferenza saranno 30 cm, 30-35 l'uno. Va bene che va bene, kappa. È una bella bestia, quanto è nera, no? E il cazzo, la bestia ridda. 6 metri di boom, 9 metri di radiali, 3 radiali da 9 metri con le bobine attaccate. È cosa ridda, è un po' grande. Quanti grammi adesso su? La Mantova è la V1, piccola, però ho tolto anche la grande, la 510 l'ho regalata a Luca, ce l'ha messa a posto, l'ho impressionata, ce l'ha lui, la 510 V1 con la grande va a 6 metri, non mi interessa più, ne ho messo una piccolina giusto per fare due chiacchiere e basta, la Mantova, poi vabbè so, c'è il dipolo unico, c'è cioè che attraversa tutto il terrazzo, 15, 20, 40, 80, ma sicuramente ne toglierò anche quello, adesso vediamo. Il minimo sindacale sta lasciando, là. Ma scusa, io la uso, scusa, chiedo scusa a Gianni, quell'antenna che c'è praticamente vicino al camarillo, entrando per andare al camarillo Brillo, c'è un bar lì sulla sinistra, prima di quella di scendere a destra per andare al camarillo, c'è, ho visto una Mantova 1, credo che sia una Mantova, l'ho vista sulla parte superiore, di chi è, lo sai? No, so che oggi lo abita Francesco Urania, ma non so dove abiti, quindi non ti posso dire che sia la sua, non lo so, Gianni. Scusa perché c'è un telefono, non è a sé. Lei, telefono, non lo so, Fra, non lo so, sinceramente non lo so. Non lo so perché io la uso, lo manco già più di 4 anni, avevo anche quella zona, però non l'ho mai vista. Vabbè, io lì facevo la zona all'ingresso, metto la torre sotto che c'è il campo sportivo, al centro storico non ci sono mai andato, ma quella parte lì non ci sono mai passato, capito? Entravo e uscivo da lì perché poi scendevo da Santa Vittoria, capito? E questa praticamente entrando dalla vecchia strada di Nusbi, che si richiamava Nusbi, se lo trovi, prima c'era un panificio se non sbaglio, c'è il bar, entri in quella via sulla sinistra dove c'è il bar e poi subito la prima, una piazzetta lì sulla sinistra e si vede l'antenna lì. proprio all'inizio del paese, dai. Dopo la sessione di Francesco, non lo so, vabbè, non sono mai andato lì. Poi se sia la sua, visto che mi sembra che sia l'unico che parla da lì. Boh, non lo so, ma quando... se dovesse entrare glielo chiedo avesse la sua. E tu, come sei messo a Covid? Tutto bene? Hai visto, hanno chiuso il Conad di Via Gramsci e il Conad dello Shan. Mi ha salato, no, non lo so, non lo sapevo. Noi per adesso tutto bene, qualche amica abbiamo che in quarantena, poverina, adesso sta aspettando l'esito del tampone, infatti non sta più uscendo con lui, ha appena sentito i sintomi tipo mancanza di sapore o così, l'olfatto un po' debole o assente del tutto, lei è un insegnante e quindi si è messo subito in allerta, dai. Sì, dice che c'erano dei positivi, sì, via, soprattutto in via Gramsci l'hanno nascosto, con il controllo hanno fatto il controllo generale dei tamponi e sono risultati un po' positivi, quindi hanno chiuso tutto, chiuso lì e chiuso anche il Conad del centro commerciale, bah, per carità, ragazzi. Ma non esimo più uno, ecco è nudo, spero di avere col freddo, come si deve. Per carità, ci chiudo di nuovo, vedrai. Ecco, se devi fare, fa. A me, te l'ho detto, io non c'ho niente da perdere, niente da guadagnare. A casa sono, ma il problema è l'aria. Il problema è l'aria che deve chiudere nuovamente l'attività. E allora, noi bene o male siamo arrivati. I nostri ragazzi, che lo stanno già crescendo. Adesso è il futuro loro che ci interessa. L'occupazione mia è quella, infatti. L'aria che rimane a casa, è scelta di Napuru, anzi, non mettendoci soldi. Pure? Beh, io lo vedo. Ma, lei non può essere entrato nel doppio room? E già dietro al telefono, ma quando il telefono sta un po'. E così è. Ma io sono tutto... Ho fatto i capelli, manco più al barbiere, ho preso la macchinetta, l'ho imparato, ogni 15 giorni mi faccio i capelli perché ho paura di andare a fare queste cose, no? Non me la fotti tutta. Non me ne frega niente, adesso mi organizzo in questi giorni, vediamo un po', già ne ho da fare, ma salgo su mansarda, mi metto a fare, dipende dalle giornate, no vabbè. L'unico problema è che devo scendere in campagna per i genitori, o io o mia sorella, dai, bisogna tenerli conto, perché adesso poi abbiamo tolto la macchina, quindi dobbiamo fare tutto noi, non era da lasciargli la patente ce l'ha ancora, la macchina l'abbiamo tolto. Hai fatto bene, mio socio l'ho tolto io, ci aveva la Peugeot 405 nuova, l'ammiraglia. Ogni tanto si cogliere un cancello, ogni tanto l'ha buttato a un muro, ha detto boh, fa una cosa, lasciala stare qua la macchina, come faccio andare in tram, va di birra, e noi abbiamo bloccato con la figlia e il figlio, ma ho preso iniziativa io, se no loro dice, poverino, come fa a muoversi, sì, si saranno un cazzeggiaggio anche l'uno, capito, è così. E quindi chi sta andando giù, tu a Rosa? Un po' io bollino, perché si va più rosa di me, perché ha più forse quelle 14, c'è un tempo libero, e ci va spesso, a volte mangia con loro, va a scendere presto, mangia con loro e poi va a lavorare le due. E sino anche io ho pensato la stessa cosa, ha iniziato con qualche colpettina a destra a sinistra, una rotatoria, e poi ha preso l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha tolto, iniziato a togliere la macchina dal garage, lì gliel'avevo già fermata, l'ha tolta a mano, gli ha spaccato lo specchietto, distrutta. Allora abbiamo preso, gliel'ho sistemato lo specchietto, l'abbiamo venduta subito. Allora, una baita a pochetto in cagnesco, vero? No, poverino, mio socio era molto buono, quindi ha accettato questa cosa perché è chiaro che stava diventando già un pericolo, capito, aveva 78 anni. E 78, sì, ho 78-79 anni, sto tornando con gli 80, però avevo un po' di acciacchi, non si poteva girare, sai, per vedere dietro, qui e là, già le mancavano un po' di gradi di vista, quindi ho detto, boh, là c'è stata la macchia, neanche noi l'abbiamo venduta lo stesso, venduta, ricordate, una bella macchina era, era benzina, era, mi lascia benzina. Va bene, e io e Rosa sempre in ospedale. K, positivo. E anche questa è la nuova, la macchina, era l'ultimo modello della Fiesta. C'erano 24.000 km, quando l'abbiamo messa in vendita, ci hanno detto, ma ne avrà 240.000, no, ne ha 24.000. Non ci credeva nessuno. Gli interni nuovissimi, qualche colpettino che gli ha fatto lui ultimi perché non stava più attento. Colpi di memoria, però ne ha quasi 90, non ne ha 70-80, ne ha 90, grazie a Dio, non ci possiamo lamentare, perché la visita l'ha fatta per la patente, è passato alla grande. Anche mio socio l'ha passato, no, vabbè, ma lui aveva delle cose, delle patologie, capito, quindi non era più in forma, non era più niente, purtroppo non è che era vecchio, però... Non era più attivo come prima, capito? Allora che abbiamo tratto via. E con le mie socie ne aveva 32.000, figurati. Lo usava per andare a fare la spesa, non è mai uscito da Sassari. Anzi, qualche volta d'estate andavano al mare ad Alghero, lì a Maria Pia. E boh, 32.000 km, ma era del... Boh, adesso non mi ricordo quando l'aveva comprata. Comunque, non l'abbiamo data, sarà già... più di 10 anni fa, più di 10 anni fa, capito, quindi era nuova la macchina, lì c'è motorizzata, interne era 9-9, c'aveva i cuscini davanti per non sporcare i sedili, più dietro non c'era mai seduto nessuno, c'era solo l'ombrello appoggiato sul sedile, e buh. E così era quella lì, nuova di zecca, era, noi l'abbiamo avuto qualche mese fa, scusa. Sai che poi nel 2014-2015 la macchina, quindi c'aveva 5 anni. No, quella era più, però era nuova, perché 10-12 anni fa, molto del successo, mi ricordo. Non mi ricordo, sono, sì, 10 anni già qua di nuovo, qua giù, nella casa dove abitavano loro, quindi 10 anni ho fatto quest'anno. Perciò sarà 12 anni che è morto, perciò vabbè, e cosa vuoi ti dica? Cazzo, si sta non volando, però ma domani c'è stato tempo bello. Si sta preparando per il fine settimana, mi sa che si sta abbandonando l'alta pressione, anche stamattina c'erano tutte quelle nuvole strane, sta arrivando umidità, chissà che non piove così per qualche giorno. Bello, ma ieri era ancora tan bello. Sì, ieri era proprio il cielo era azzurrissimo, chiaro, oggi invece era un po' di, come dire, stratificato, un po' di nuvole. E lì c'era il sole cocente, proprio se andava da solo c'era proprio ti bruciava. E qui non c'è il mare ancora, avendo tempo sarei andato anch'io, E adesso è bello andare a pescare, in questo periodo ci sono latte grosse, mi vanno a mettere le uova. Per la pescare con la carta, questo periodo. Sono andato l'altro giorno, qualche settimana fa, quando c'era qua, quando ha calmato quel vento brutto, a fare un po' di saraghe e occhiate, ma qualche bel petto l'abbiamo preso, niente di che, però ci siamo divertiti, dai. Lì basta che fare la schiuma e ti fa beffa, dove c'è schiuma. Sì, sì, sempre dove c'è mareggiata, dove il sarago va in giro a mangiare, sarago occhiata, in agguato, là. Ho preso anche un paio di orate, sempre galleggiate, però non di taglia grande, dai, su 300 grammi, 400 grammi. Già va bene, meglio di un pugnaluccio. Però, insomma, un'orata più piccolina è un peccato, quasi un peccato prenderla. Ma perché quella che ci sono di faio all'albero, un 90 giorni, sono a 400-500 grammi. Queste erano quasi come quelle, dai, al limite. No, se a volte capita che riesco a slamarla bene, viva, ma a volte si inghiottisce tutto, quando vai a slamarla vedi che non reagisce, allora piuttosto che buttarla me la porto via, dai. C'è mio nipote albero che lavora lavora lì perché è biologo, capito? Figlio di mia sorella è biologo, quindi c'è il fratello che è geometra e l'altro è biologo. Geometra, poi c'è scritto l'università, se l'aveva come un architetto, un altro biologo. Il biologo è entrato in questa cosa lì di Alghero, questa cosa di Alghero, fate sempre i chivi. E l'altro giorno, infatti mi esce la matta, se ne vuole buttare, no, in Alghero te le prendi e mani a Dio, a Giovini, Alghero a pigliarmi i gatti desiderati, no, non ci voglio, non ci sono andato. Ma a che parte? Le interno? Le acque interne? Sì, interno. C'è mai stato? Sì, poi vi spiego le belle. Sì, prima con gli amici, ex colleghi che lavorano, ma lì già ci vuole la licenza perché sei già in acque interne. Una volta abbiamo fatto strage di, come cavolo chiamo, di sogliole. Cazzo, era pieno di sogliole. Stai attento che lì prendi le spigole, lì abita mio cognato Fertiglia, ci va spesso lì al punto vitale, chi stai dicendo già. Stai attento che lì le spigole, gurgio le due in bocca anch'io. Va bene. No, io le ho prese, ma erano, non erano grandissime, vesine, ma non grandissime. No, io sono lì con una giovane sciampata. Anche io ho quell'idea, Claudio, la spigola io non la mangio, le mangio le spigole. Perché lui era di questa roba, lo mangiati tutta la roba che lui ci fa della fogna, a migliaia li ho visti, da lì non ne ho più toccato, Bucci, non ne ho più mangiato. Ma non spiego la stessa cosa, Giacomo, mio cognato è peggio in te, è sempre bifendi, sempre. Una terra, una canna, un fucile, sempre. E tutte le volte che prende le spigole, che le pulisce, c'è il proprio ventre, piccolino ma c'è. Soprattutto lì al Calichi, perché c'è lo sbocco della fogna. E ci ho lavorato in quella zona io, la zona di Arenoso, quindi già la conosco molto molto bene. È pieno di spigole, ma sono tutte puzzolenti. Io non ne ho mai mangiato, non l'ho presunto. Mugine io l'ho assaggiato solo una volta all'Oristano ad una sagra, ma cosa così buona non ne avevo mai mangiato. Mugine di Oristano, mugine d'acqua dolce, ma veramente squisito, veramente squisito. Qua non ne ho mai mangiato mugine io, solo lì l'ho mangiato a questa sagra che l'aveva preso questo mio amico, questo collega di Oristano. Sono andato una volta a trovarlo, c'era la sagra del mugine proprio, e ti dico che era veramente, veramente buono, cotto lì e mangiato lì, veramente buono, però non me ne va a me di chi di qua, di zona, perché no, sono puzzolenti. Sì, anche nella zona di Palliduria, quando li pescano, sono tutti quanti amari, amari, sotto, babbavì. No, non mi piace il mugine, è un pesce che a me non piace, è uno spazzino del mare. Poi io che ho fatto pesca subata, non so perché lo vedete, scavavo in mezzo alla sabbia per cercare la roba, tutta la boccheria si mangiava. Claudio, a me mi ha detto una cosa, non so se sia vera, dice che ci sono dei pescatori che vanno all'isola della Maddalena, è pieno di zurichi, fanno mettere le trappole per prendere i tubi e poi li mettono nell'acqua, prendono le grosse spigole. Dice che vanno apposta, mettono le trappole, prendono i tubi e dopo li innescano nell'acqua. Dove c'era il cantiere di Polese, stai dicendo? All'isola della Maddalena, mi hanno detto, non lo so, io non ho letto la posta, la Maddalena è quella che c'è al Ghero, là. Sì, lì c'era la Maddalena, ci avevamo fatto una escursione amatoriale lì, sì, lì c'era la Maddalena, e lì c'è un covo di zurichi, ma se tu vuoi vedere tutti, ma tutti davvero, poi dove c'era l'ex cantiere lì di Polese, un covo di zurichi, addirittura hanno anche recintato, hanno messo un sacco di medicina là, perché quelli che abitano lì si sono lamentati, ma solo che barò. Ma per dirti, sono pesci bucaccioni. Una volta un mio collega di Portotone si è andato in banca a pescare, ma io già ne ho preso una da 22 kg, una ricciola, però una spigola. E la ciabatta, l'usatore di Vogna, ha detto, ha preso, gliel'ha tolto e se l'ha venduta a tracci. Sì, molta gente fa così, la pulisce, ti dice, no, mi ho pescato, l'ho pulita a mare, sì, sì, un avvocato lo giuro, no, no, no, ma è capitato anche, sono andato a pescare con Franco una volta, la presa è lo stesso, ma va a crescere al topo dentro, quindi per me la spigola è proprio, mia figlia mi ha fatto la spigola, papà, prendimi le spigole, prendimi, no, quando gli ho raccontato quello che gli ho detto, non ne mangia più, oh, nessuno non mangia più pesce, mi sciogliono salmoni, quelle cose lì, capito, totte, quelle cose lì mangia, se no niente. Riprendi fra che mi allontano un attimo che mi vuole annaggiatelo subito. Ehi capo, no, anche io non mi è mai capitato, però ho sentito questa storia delle spigole che attaccano i topi. Mi ricordo che c'era anche lì, dove c'è quel molo delle grandi navi veloci, alta fondale, dai, ci sono quei blocchi in pietra. Lì, se non siete andati, ti portano l'esca, ti portano il panino che ti porti per mangiare, la tua gianderrone. Però, ripeto, io vado proprio a mare dei furi per quello, perché almeno quello del pesce che prendo è pulito, sono tranquillo che ha mangiato solo, dentro trovi solo altri pesci e basta, mi ho proprio rumo. Ehi, anche io li ho visti i topi di notte, quando sono andato a pescare lì dove stai dicendo tu. Lì è anche dove c'è la finanza, il molo della finanza lì. È pieno di suri, per carità. No, no, perché ci lasciano le esche, sono bucaccioli, molto pescatori, io mi porto la busta. Quando io finisco, prendo e ci butto tutto dentro la busta, poi come trovo il primo cassonetto, ti rilavo. Però c'è gente che lascia tutta la roba. Io quando andavo a pescare, prima mi dovevo fare la pulizia tutta attorno perché è tutto pieno di roba, di scarto, di cose. Perché non mi piace stare in mezzo alla mattina. Prendevo, pulivo tutto qua, la mettevo dentro la busta che portavo io, così almeno lasciavo pulito il posto. Tanto da poi ti trovi il tubo, che cosa lascia fare scuola? Sì, sì, se vai a Fertiglia, è un modo di Fertiglia, è un modo d'acciaio, lo sai, gente che butta tutto lì in mezzo ai blocchi, poi dopo 2 giorni vai lì a pescare nuovamente e sei in mezzo alla mondezza, e come dici tu poi arrivano anche gli animali che non dovrebbero esserci, topi e cose varie. Allora, ma l'ha rinnovato tu poi il permesso per pescare? Io sono andato da poco in capitaneria a rinnovare. Sì, no, quello ce l'ho, non ho rinnovato la licenza per le acque dolci, è già qualche anno che mi è scaduta e non la sto più rinnovando. Vabbè, non ci sto neanche andando di conseguenza, quindi. No, io non sono mai andato a pescare il fiume, non so come sia nemmeno, ma un amico che pescava certe carpe a Cuga, c'aveva tutto il freezer pieno di carpe, tutti questi pesci qua, pesci gatti, tutto. E un giorno è venuto, ma detto già, ne ho preso 5 tutte grandi, cosa me ne posso fare, un pesce per fare voi? E ha detto, no, me la cappa non piace, non è un pesce che è buono. Già, te lo dico io come fa, la fai. La fai a tracci, stanotte tu la metti a bagno con sale rosso. Poi domani me ne mangi, vedrai, la fai come il baccarà. Oh, va bene, già ora di un baccarà. Sì, se no, quella è saputa cucinare, sempre presa in acque pulite, perché anche lì se quando la prendi, che prima la prendi, la carezzai. Io ne ho preso a Tula, qui a Osilo, a Buneri quando c'era la diga, al Cuga, no? Anche il persico, persico reale, persico torto, il pesce gatto che prima non c'era, è stato portato qualche decina d'anni già, ma prima non ho mai visto lì al Cuga, lì a Tula, mai visto il pesce gatto, adesso lo trovi. Qualcuno ce l'ha portato, questi continentali che vengono a pescare, li ho visti lì a Tula, vengono attrezzati con furgoni, celle frigo, fanno battute di pesca, ma battute, le tagliano, puliscono e congelano e ce le portano via. Fanno una strage, perché poi lasciano tutto in terra, il ventrame, lo puliscono, per carità. Se fa fare strage, a caccia lo stesso, venivano con macchine piene di munizioni a pigliare i turbi, te lo ricordi un periodo? E allora, che dove è guerra, Bazzieri? Che si segue? E qui ancora ce n'erano, da loro avevano già distrutto tutto. Dopo vengono qua, hanno fatto col coronavirus e dice che abbiamo contagiato lui. Ma non ammara, vai, quasi vengare. Una volta avevo degli amici della zona di Bari. E eravamo lì alle bombarde, abbiamo fatto un'immersione. E in mezzo alle orate, ma orate da 2-3 kg, forse anche di più, va. sembrava poi quella macchina sembrava ancora più grande. Questo ragazzo, ha avuto già una trentina d'anni, a bocca aperta, cioè, perché da loro non c'era più nulla, un deserto andare a pescare con fucile. Con fucile c'era un ragazzo che entrava al Molo Cattani, quando andavamo a pescare al Molo Cattani, non so se tu sei mai andato, c'era un ragazzo che entrava dal faro, da lì, entrava in acqua, se ne tornava, lui veniva, passava con la tuta, con la tuta su macchia, già infilata e tutto, la maschera, pronta a immergersi. Prendeva di notte e mi andava, se ne tornava sempre pieno di grughi, di murene, polpi grossi, di tutto. C'era una murena una volta, li toccava a terra, ce l'aveva appesa, perché se le lasciava appese, ce l'aveva appese, no? Nel coso, nel cammino. Ma c'era tutto penorato, di tutto di più c'aveva. Se la strage che faceva, solo che si lasciava fare chi mi la rischia. Sì, no, io non ho mai pescato, solo con la canna lì e basta, poi non sono mai entrato, anche perché non si può entrare come dici tu, specialmente poi di notte. Una notte mi ricordo, praticamente io mettevo il filaccione a parte di fuori, dove c'erano gli scudi, no? Con un barato, di modo che se toccava non sentivo, e dall'altra parte pescavo con la canna. Con le cozze però, con le cozze intere, ma le faccio come ho fatto un raschietto, come quello che c'hanno i muratori per raschiare cose, non c'è uno di quei raschietti, l'avevo comprato, l'avevo fatto il manico che si allungava, e poi col coppolo lo mettevo sotto, raschiavo la parete, prendevo le cozze da lì stesso, e la mettevo fresca e fresca, ed è anche una giubilata così. Beh, una volta a casa si gira il mare, le onde passavano dalla parte del mare di fuori e entravano alla molo dove stavo pescando. Cara, dovevi trovare il momento giusto per passare, quando ce le stavo mandando, prima ho visto che c'erano quelle specie di casupole dove stavano le guardie giurate prima, ci siamo messi lì dentro per ripararci. Poi... c'era qualcuno sotto, si sentiva un fischio. Si alza un po' che non ci vado quella zona lì, adesso ormai andiamo male di fuori, a volte quasi in spiaggia. Lì ai Pettine, o quinto, terzo, sesto, settimo, insomma, un po' per tutto, dai. All'Argentina qualche volta. Però c'è qualcuno che vuole entrare, dai. Hanno messo portante sopra o sotto. Vabbè, comunque. Quelli sono dei bei busti. Ma ai Pettini qualcosa prendono la strada? Non ho capito. Ai Pettini qualcosa la prendete? No, io no, non sono mai andato bene queste parti. Ma qua già ci vogliono canne un po' più performanti per riuscire a lanciare parecchi metri lontano. Perché se non arrivi oltre quell'ultimo frangente è inutile. Ci vogliono canne professionali. Non ha detto. Io con una canna a 3 metri ho preso un'orata lì al presidio militare che pesava 2,8 kg. Ma non c'era mare grosso, dai. Non era molto grosso, non era formato. No, c'erano onde lunghe. Non era mosso, però c'erano onde lunghe. Era il mare proprio che si adattava a prendere le orate. Lei ha beccato la distanza giusta, arrivava in bene, dai. Dopo lavora l'onda, lei sta lì a frugare perché solleva tutto il mangiare, vermi, scopre dei vermi, dai. Patelle, non patelle, come si chiamano, asselle. Le petite, ma per dire, se vai verso il settimo Pettine, lì ci sono i cannolicchi, perché ho visto un tipo che va a pigliarli con un ferretto, va e se ne fa ammazzi. Una volta c'era questo ragazzo, l'ha visto uscendo, gli ha detto, ascolta, li vedi quei cannolicchi? E lui ha detto, ascolta, facciamo una cosa, io te li do, te li regalo, ma no, ha detto, se tu prendi un'orata, la prima la dai a me. Ok, ci sto. Ha preso questo qua, una, ha preso 7-8 davanti a me di orata, una più bella dell'altra, più da chilo e mezzo. Si è detto questa ragazza che si doveva sposare, che se li metteva in frigere e poi li avrebbe utilizzati il giorno del suo matrimonio. Stava facendo la scorta. E lui era bravo davvero allora questo. Sì, sì, sì, quando c'è la mareggiata si riscoprono i canoni che le orate vanno a mangiarli. Li prendono oltre il retro e lo infilano nel buco, quando lui si chiude estraggono il ferretto e attaccato c'è il canolicchio. Non so a che profondità, 20-30 centimetri. Ascolta, poi questo qui gli ha regalato l'orata, quello che gli ha dato i canolicchi, no? E ci ha fatto tutta la spiaggia colorata per la coda, gridando, ha giubicato l'orata, che se la disusa, ha giubicato l'orata, e pure se è tornato, tu vedi come ti ha giubato. Guarda, guarda questi... Questi mi sono troppo simpatici, coloriti. Io, beh, una mia collega, mi ricordo sempre la battuta che mi ha fatto, un giorno stavo sempre parlando, cazzo, stavo sistemando la merce, lo scappare, e lei ha detto, ma non asciutti mai, e mi ha detto, se tu vuoi silenzio, sempre devi andare, anzi a San Paolo, chi mi lo fa vedere di sciuro. Una volta lui mi ha raccontato, stava pescando, no? A un certo punto è già piovere, cosa ha fatto? Non c'era niente per ripararsi, ha preso, si è messo, lui c'era un sacco di moneta, se l'ha messo sopra. E lui si è messo in quei sacchi grandi, no? È passato passato amico sempre di sotto, ha detto, ma vai dai tu, sei delinquente, hai legato la moneta e mezza di birri. Prendili da un calcio, e me la chiedo dentro, l'ha lasciato i denti. Dici, oh, che carro era, oh, il trattore che mi è passato in altro, ha detto, voi come raccontano loro, sono simpatici. Io, guarda, una notte sono andato a sentire un pittine, ce n'erano due, però c'erano carne performanti, diciamo, erano in calcata, ed erano di quelle da lancio, 5 metri mi pare che fossero, e praticamente c'erano tutte le orate invece della... Tu. E anche questi buppiccati mi piacciono i piedi d'agnello. Se ne serve, praticamente quando sono cotti devi uscire quello sicilo che c'è sopra. Per sapere quando sono cotti, devi uscire da solo, senza fare forza. Quando cresce quello sicilo lì sono pronti a fare. E dopo che li fai così, bolliti li fai col sugo, oppure anche in agliata come voi. A me mi piace un bel. Altro che aragosta, io lo giro la testa lo stesso. E mia sorella è bravissima a farli, no? Si mette, c'è molta pazienza, tutti si ripulisce, si lava e poi li cucina, ma quando gli appoggi la labbra sopra, asciugatura, ne esce tutto. Sì, sì, si devono sciogliersi così, perché se è attaccata non si vuol dire che non sono attaccati, perché non sono tutti belli. E vabbè, sono cose che bisogna saper fare, c'è un tempo di cottura, tanto quanto, poi la spia te l'ho detto quale. Praticamente lo sicilo che c'è non sopra deve uscirne, come lo tocchi deve uscirne, se devi fare forza vuol dire che non sono ancora cupo. Sì, sì, no, ripeto, mia sorella è brava in qualsiasi campo, cioè, cucinando le piace cucinare, le piace mangiare, ma le piace anche cucinare. È veramente bravo, infatti faccio sempre complimenti. Adesso mi prendo i funghi, sta sempre facendo roba a base di funghi, pasta, con ovoli e cose varie, porcini, antunna. Qui io li ho mangiati oggi i funghi, però sono buoni. Ogni tanto dice che non bisogna mangiarne molti però, perché fanno male. Anche se non sono velenosi, quando ne mangi molti dice che fanno male. Bisogna mangiarne pochi di funghi. Sono rientrato. Che funghi hai trovato? Ma che funghi? O ti hanno dato? Non so. Io sono andato ieri ma non ne ho trovato, verso Usilo sono andato in bianco. avanti qua. A proposito del fungo, allora non mi hanno regalato, ma non vi fate segmentare, perché costa un po' cresciuto, un carissimo amico mi ha mandato da Matera, assieme a altre provviste, mi manda sempre olio, ogni anno mi manda prima di Natale uno scatolone pieno di olio, che fa lui, marmellate, eccetera. C'era questo in volo che gli toccato una breda, mi ha mandato. Figura di altre giovignolante, cazzo una breda, ho detto cazzo, allora oggiamo il braccio a capo. E mia moglie ha detto, papà, fai la brava, quello è tartufo. Come cazzo si mangia questo tartufo? Si grattugia. Non proprio grattugiato, a scagliette io, scagliette sottili, tipo quando fai la grana, no? A scagliette sottili, così lo fanno, per condire la pasta, quello che è. Era nero o bianco? Nero era, nero, marrone scuro. Perché ce ne sono due tipi, c'è il bianco e il nero. Però costano un sacco, tutti e due. Non l'ho ancora toccato. Adesso vediamo, se no te lo becco se l'aria chiude alle 10. Domani però fa l'apertura, quindi apre lì alle 7 e esce alle 3. Quindi lo farò domani notte. Faccio delle pennette con questo, l'aria mi ha dato già la ricetta. Al tartufo, ma io non è che mai mangiato, non ne ho mai mangiato, la verità, non so manco che gusto abbia, dice che ha il gusto alla bottarga. Io bravo, l'ho mangiato a Tirni, tutte queste cose prese da loro, sia il tartufo che i porcini, ha fatto il riso con i porcini e poi c'era la sera ha fatto la pasta con il tartufo. Questo riso con i porcini che faceva un profumo, si sentiva l'odore da fuori, l'odore dei porcini, figurati, ma poi il sapore che vi dà, poi all'artisopore, appena fatti avrei. No, quelli ce li ha finiti, quelli lo stesso, meglio. Mandati un ex collega di Tempio, li ha fatti lì a Caranjanus, porcini, buoni, saranno una quindicina. Li ho tutti già puliti, i tronchi non li ho buttati, li ho messi in un'altra bustina perché quelli faccio un'altra cosa. Sì, e quelli li faremo col riso, così. Però questo tartufo non so come ti giovati, vabbè. Mio figlietto già si arrangia lì, che lo facevano quando era a scuola, queste, quando faceva il laboratorio, facevano queste cose così. Vabbè, farà due, allora portate me vai a mangiare, vediamo che gusto c'ha questa cosa. Non ne ho mai mangiato, sentite una cosa primizia, delizia, chiamala avanti voi, ma che costa un sacco di soldi. Infatti l'ho ringraziato a questo mio amico di famiglia, tu è un amico di famiglia perché non manda solo uno scatolone a me, manda tutte e cinque ai miei fratelli, a me e agli altri quattro, tre mie sorelle e l'altro mio fratello, capito? Ogni anno, in questo periodo, prima di Natale, infatti c'era una lettera dentro così, e poi ho chiamato il telefono, ma tu guarda, te l'ho mandato adesso, figurati mi chiama Pasqualino, a me, Marco Claudio, perché mi conosce da bambino. Lavorava a Leniken, era un perito chimico dell'Leniken, dormiva a casa da noi praticamente, mamma ci aveva camere in più e quindi le affittava allora, in quei tempi della Sir, non Leniken, Sir, quindi quanti anni so, non voglio io 2-3 anni. E quindi praticamente mi ha detto che l'ha mandato adesso per il problema della chiusura poi del Covid, capito? Poi anche lì a Matera dice che è un casino, comunque. Vabbè, vai fra. Sono gusti particolari, forti, capito? Non a tutti piace, come lo champagne, come la bottarga. C'è quello che tira la testa, c'è quello che invece non può sentire neanche l'odore. Sono gusti particolari. Quindi, l'altro giorno ho fatto un fine settimana, come si chiama? A Santa Teresa. Tipo a conduzione familiare questo albergo, ne ha due, uno grande e uno piccolo. Siccome le turiste erano già andati via, ha tenuto aperto solo la parte di questo albergo piccolo, dove loro abitano addirittura al piano inferiore. E siamo messi a scegliere a cucinare, cosa vi cucino? Un paio di scelte, abbiamo scelto le tagliatelle, ci ha fatto, no, le pennette con i porcini e gli ovuli. E l'indomani ci ha fatto le tagliatelle con gli anemoni di mare, con le attinie, ma buona rete, non le avevo mai mangiate, solo con la pasta, cioè come si dice, impanati, infarinati e fritti, sì, ma con la pasta mai mangiati. qua sono fermo, non ho qualcosa già da fare io, ho fatto le fettuccine l'altro giorno, lo stesso, ma questo condimento qua non l'ho mai assaggiato. Bottarga, quando facciamo l'aglio in bianco la mettiamo sempre nel piatto, però questa l'abbiamo detto che è buona, piace a Rangiolini, vabbè. Fai tè, fai camomilla. Allora io qua avevo un cognato, perché se purtroppo è morto, avevo un cognato che era di Irula, e andavamo a Samera, Irula, tutta quella zona lì, a fare i funghi. Il padre ci aveva 3 o 4 pecore per casa, faceva il formaggio per casa, il latte, lo usava solo per condizionare il familiare, no, perché lui era un e se ne era ritornato in paese a respirare aria buona, perché con quella malattia già li usava. Fatto sta che dove c'erano le pecore che stavano sotto gli alberi, poi ci veniva da più parti dei funghi che c'erano, Prata Iuri, Matta di Tamburo, Coso, Antunna, di tutto e di più. Io quando andavo lì mangiavo sugo con i funghi, funghi fritti, di tutti i manieri i funghi, e dopo quando me ne andavo sempre con le 2 buste piene di funghi, prima di andarmene andavamo, li facevamo, lui mi aveva segnato qua li prendere, li facevo vedere a lui perché lo riconoscevo, me ne andavo con 2 buste piene, ma era piena, adesso non lo so, io ti parlo di tanti anni fa, però allora ce ne erano bene. Ho scusato una massa. Ehi, non dire a me, no, io ho lavorato per anni a Perfusi, i miei colleghi erano di Irula, Giovanni Spezzica e Fratelli Sancio. Proprio lì, in quella zona, Giovanni mi pare che abitava proprio scendendo da Irula a Samera, e Galvino invece abitava, Sancio abitava proprio a Irula. E un giorno abbiamo fatto uno spuntino all'impianto, proprio tutto a funghi, porcini, prataioli. Ha portato queste matte di tamburo più grandi della pizza rotonda. Le abbiamo fatte nella graticola, no? Perché c'era anche carne, cioè abbiamo fatto la graticola, aglio, prezzemolo e peperoncino. Cazzo, ma una cosa così buona io non l'avevo mai mangiata. Allora, la matta di tamburo io ne ho trovato una enorme, enorme, che avevo paura anche di staccarla per quella di roba, ma poi si è sparata un fumo perché deve essere che era stato toccato, oppure cioè, come ha fatto l'acqua se l'ha marcito, capito? Però era enorme, se non l'ho toccato ti rimaneva lì, però come l'ho toccato si è asciutto. E il padre dice, ma non è bello di quelli che... Se questo è il suo gusto che la metta, io non è che sto lì a spengo tutto e vado a vedere la TV, non è un problema. No, ma già da prima stavo parlando io e Gianni, sentivo sotto una portante nel fischio, dall'innesco. Vabbè, perfetto. Se questo è il suo gusto, che continui. Allora tu fai tutto. Non ho capito? Claudio, facciamo un po' papperina, la voce però non sa tipo cosa dice. Io vabbè, non so come ti fate. Noi mi metto lì a aumentare e va a passare la portante. Se ti ha già detto che era un gusto che va, che ponga, non si mette, pazienza. Il mio gusto che c'è più avanti, mi sia visto l'unico gusto che c'è la vita sua. Non ho capito a cosa serve comportarsi così, c'è un maniscione in radio. E infatti volevo chiedere come sta andando la frequenza. No, morta. Sempre peggio. Se ci bloccano di nuovo qualcuno resuscita di nuovo. Ma poi mettere in loro notici, c'è buona ragione tra fuia. Ti dici che non puoi dedicare, portanti, non ce n'erano più, avanti la portanti, bisogna. Ma io già lo so, già non l'ho detto tanto per aprire la bocca, me ne sono accorto subito che era troppo casino. Spero di no, se ci danno questi 15 giorni di chiusura, vedi, torna di niente, poi lo staccano, anzi c'è qualcuno che non lo stacca, c'è solo l'ascio acceso, lo tengo per rompere le palle. Troia, ho caricato, e cosa vuoi fare? Va. Che c'è il tuo malato, ma se va, siamo fatti nel meglio. E quindi così fa, capito? Quindi siete andati a fare un fine settimana e voi già vi spostate. Dopo con la scusa che Ilaria lavora, spostarci così è un casino, capito? Quindi c'è la residenza di San Francesco, però è sempre qua praticamente, come fa a gestirsi da sola. Sta rovata con la casa, è un peccato. Ancora la mia madre c'è una volta la cucina, il frigo è sempre attaccato, sempre, cioè, capito? È sempre qua, perché non come fai? Come fai? Quando io arrivo per esempio all'una, alle due, trovo già sempre il mangiare già pronto. No, già è visto, dai. A Carlo stai dicendo? Io dico, non ci possiamo lamentare. Quando partiamo lui già rimane tranquillo, già controlla tutto. Il gatto, vabbè, tutto. Ah, se la gestisce alla grande. Oh, si arrangia, dai. Vabbè, ma l'aria lavora, quindi... Lavora lei, lavora Mario, è un casino. È un casino, mi provo domani, mi ha detto di andare appunto a mangiare i cani, perché domani mattina devi andare in aria di apertura alle 7. Mario mi pare di andare a porre la macchina col cavatrezzi, non so dove, lo stesso presto, quindi vabbè, già mi arrangio io. E il cavo sta facendo dalle 8 alla 1 e poi dalle 3 fino alle, a volte niente alle 7, l'orario di 6, ma esce sempre più tardi. Dove sta lavorando? Vicino a Losa c'è un capannone che vendono praticamente quasi le stesse cose di Losa, dai, lì a Bradanieta. Non ho capito, commesso quindi. Sta lì ai computer, però quando c'è bisogno dà una mano anche lì, alla vendita. Io vabbè, l'importante è che faccia qualcosa. No, va bene, va bene. Avanti già. Vabbè. Eravamo tranquilli, parlavamo di mangiare. Già lo detto con la vabbè, un voce di cose, per il western. Già ne farò lo voce di Trinità, ma ti già, lo chiamano per una Trinità. Ho fatto guardato per la sirena dei carabinieri. Hai guardato, non l'ho più sentito, sta entrando sempre. Sì, ogni tanto non c'è tempo. Dicevo stamattina, io un giorno sì, un giorno, durante la settimana vado a trovarlo, la mattina presto. È sempre incasinato, capito? Poi c'è tardi dal lavoro. Capo, c'hai altre radio accese? Ehi, il PMR c'è acceso. C'è gente che sta parlando, non so dove cacchio sia. Vabbè. Ma sul canale 7, no? Sì, sì, sempre sul canale 7. Quindi, non è gente che conosciamo? No, è sempre che chiamo Luca Vasselli. E ci sto facendo anch'io. Gianni, ci sei? Ci sei? Oh, va. Qua. Ciao carissimo, ma perché si vuole segnare così basso io? Boh. Ma è che accendono Giulio? No, non mi sale la portante, sta salendo a 9. Santiago 9 c'è qua. Ma prima andava a 9.20 quando parlavo. Boh, controlla PL. Ciao Franco, tu sei Santiago 9 qua. Buonasera. Hola. Ehi, ehi, buonasera. Chi è Tino? No, ciao Claudio. Ciao Giulio e ciao Franco. Ehi, ciao... Tony, buonasera, ben sentito. Mi sembravi Giulio, ma mi sembravi Tino dallo stacco. E allora, sono Giulio o Franco io, vai. Franco vi ha salutato. Bene, bene, se 10 minuti mi posso trattenere di più, perché poi dirò coltivare in cucina. Oh, ehi. Anch'io, ma anche. C'ho molto a tempo, sono già le 7.05. Un pochino, poi mi si fermo il cane, anch'io mi dedico a fare qualcosa, c'è mia moglie che non fa bene, e quindi sto facendo tutto io. Adesso domani mattina mi devo imballare le antenne, perché le ho vendute Luca, e quindi devo imballare, devo andare lì via Pascoli da Gianni, in via Montella, a prendere il cartone, con la rotoli. Imballare tutto e prepararle, perché poi lunedì o martedì mi passa il corriere a prendersele, capito? Capo. Sì, ma io mi sa, mi vedo così tutta la stazione, non me ne affitto più nulla, ma tanto mi rimane solo il risotto, no? Lo so, Tony, non è più come prima, però vai, lì sei da solo, ti fa compagnia, due chiacchiere ogni tanto. Poi lascia tutto lì com'è, perché se hanno deciso adesso fra 24-48 ore si sa se la Sassari arriva a lockdown per 15 giorni, quindi saremo costretti a stare tutti a casa nuovamente per 15 giorni, perciò lascia stare tutto, no, tutto a nuda. Vai Giulio. Ok, ciao Tonino, ben arrivato. Quasi in contemporanea siamo arrivati, perché anch'io sono arrivato adesso praticamente. E ciao anche a Franco, se mi sta ascoltando. Santiago 9, Franco, non lo so cosa riscontri tu nell'antenna, ma comunque Santiago 9 mi stava arrivando, ma poc'anzi è le 9.05, per cui qualche faccio contatto magari nel PL, controlla fra se mi sta ascoltando. Dai, cambio apparato, dai, riprendete un attimo, saluto tutti, un abbraccio, riprendi giù. Forse ci siamo sovrammodulati qua, non lo so. Avanti qua. No, ha detto che cambia apparato. Vai Tony, che sono chiuso la Conad di Via Gramsci, la Conad del centro commerciale ex Ocean. La Conad praticamente, il supermercato la Conad dell'Ocean. Hanno avuto più della metà i buchi positivi, sia qua che giù. Hanno chiuso tutto, ma nemmeno Ducati. Ma solo io stamattina era aperta lo Ocean. Cioè no, stamattina, aspetta, pomeriggio. Io sono andato verso le 3.